Ecco, con il consueto ritardo, autorevole ritardo, inizia banda armata. Vai, Pepo. Che gesticola con le armi, e tra i nuovi santi illuminati al neo sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato, ed intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, studenti incriminati che si rafforzerà la polizia, perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è accettata la promessa del sempre, tu che fingi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura, e giù libri legati e letti mani. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è. Chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità. Chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con l'età. E da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare sta testa pelata. E il copione ormai lo sanno tutti a memoria, e la solita non cambia la menata. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato. Ma lo stadio, aspetta, vengo insieme a te. Barlume che c'è nell'aula P2, noi andiamo con banda armata. Banda armata, la trasmissione del collettivo P2 occupata, che va in onda sulle frequenze web radio di Fuori Onda Radio, la radio che tutti quanti voi state aspettando, e va anche in replica sulle frequenze fisiche di Radio Cinema 107.5 il venerdì alle ore 17, nonché, signore e signori, ancora su Radio Transizione di Fase, il martedì alle 20. E siamo qui ora noi per fare una concorrenza spietata a un network internazionale, Sanremo. Noi siamo qui, Sanremo dei poveri, Sanremo dei precari, dei proletari, insomma. E quindi godetevi queste nostre canzoncine amorose. Fatta questa premessa dovuta e debita, soprattutto grazie anche al monologo Gigi Rentano, che ha svelato ogni mistero che ancora persisteva in Italia. E adesso noi siamo finalmente, le nostre coscienze sono aperte e libere, possiamo valutare il mondo, e per questo noi iniziamo a parlare di una cosa che ci ha aperto le menti, almeno quanto Celentano, ed è la rivolta in Grecia del 12-13, cioè quando una buona parte della popolazione greca è stata toccata, come dire, da questa misura che è stata questa finanziaria, insomma, non so come meglio definirla, l'ennesimo colpo alla gola della popolazione greca. E in quella giornata, dopo l'approvazione in Parlamento, che è venuta verso le mezzanotte e mezza, la Grecia si è colorata di un colore nuovo, di una luce nuova, che è quella dei roghi. C'è stato un piccolo barbecue che ha pervaso e invaso tutta la Grecia, da Creta alle isole fino ad arrivare ad Atene. Questa è la voce che sentite del grande timoniere, che preferisce la cui identità preferisce rimanere velata nell'ombra, da una velina di mistero. E quello che dice è appunto vero, insomma, sono state 40 edifici in fiamme, occupate banche, edifici del governo, occupato il municipio, occupati i ministeri, occupati una radio, delle televisioni. In sostanza è stato un segnale da parte della popolazione greca, da parte della popolazione cittadina, che ha voluto rimettere a posto i ruoli. Cioè dire che chi ha incendiato, chi ha devastato le esistenze, che non è stato, che in quel momento c'è stata una rivolta contro chi ha messo a repentaglio le esistenze di migliaia di persone. Alla violenza non si può che rispondere, come dire, con l'organizzazione della forza in senso contrario. Non si può che rispondere cercare di resistere a quelli che sono gli attacchi senza scrupoli del governo, dei vari governi. Questo non può che ricordarci l'episodio del 15 ottobre, molto nostrano, in cui ci sono molti, ci faceva far riflettere, non fosse altro, le risposte che i grandi analisti, i grandi giornalisti danno della rivoluzione, degli scontri in Grecia. Cioè, perché ci sono dietro i professionisti della politica, i provocatori, ecco, proprio quelle persone che fanno di una certa, fanno il pomperaggio, insomma, no? E queste persone, non fosse altro, hanno detto la stessa cosa dei greci che hanno detto del nostro 15 ottobre. E anche noi non possiamo che notare un paragone non da poco, che chi lotta, chi cerca di resistere a uno stato sociale che va sempre peggio, è una condizione del lavoro, condizione della precarietà, condizione della sanità, della vita, dei trasporti, insomma, dei tagli trasversali, c'è chi invece cerca di, come dire, raccogliere il malcontento per avere qualche posto, per scaldare qualche posto in più, oppure per avere qualche tornaconto personale di diverso tipo. E c'è tutto il resto del mondo attorno che cerca di affossare quello che è il movimento in virtù della conservazione dello stato di cose presente. Questo noi non continueremo a non accettarlo, e diciamo, insieme a Peppe lanciamo un pezzo significativo che è dedicato a un scontro particolare che noi ci ricorderemo bene, che voi sicuramente capirete. Casa del Vento di Genova, Casa del Vento. Vai. Ogni tapine, le favelas, Genova chiama le malattie, le medicine ormai brevettate, chiamano i padri e le madri a letto, dei figli spenti dalle infezioni, chiama l'inferno di Rio e di Kabul, nelle discariche di Nairobi. Chiama tutti i viaggianti, gli scatolati nelle lamiere, Genova chiama ad alzar la testa, lo sguardo chino degli indigenti, chiama anche l'urlo dei clandestini, considerati dei delinquenti, chiama il diritto degli immigrati, che siamo uguali ma differenti, Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire, Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama. Genova chiama a considerare chi nelle fabbriche è incatenato, Genova chiama a dare la mano chi nella vita viene alienato, chiama la rabbia e l'umiliazione. si è mai realizzata. Chiama il fantasma degli operai, morti al lavoro a Porto Marghera. Morti al lavoro a Porto Marghera. Genova chiama l'effetto serra, e la natura è la sua agonia. Genova chiama il soffocamento per il collasso da economia. Chiama la terra ormai devastata, chiama anche l'acqua mercificata, chiama il dolore per il futuro, l'annullamento delle culture. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire. Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire. Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire. Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire. Genova chiama per costruire un mondo nuovo, e Genova chiama. Genova chiama. Genova chiama. Genova, Genova, Genova chiama. Genova chiama. Chiama. Oh, ma adesso cosa fa? Questo era l'esperto in diretta da Tripoli. E questa era una, la seconda RVM. La seconda RVM. Sì, sì. Luke, sono tuo padre. Abbiamo avuto due stacchi presi da un'interpretazione esatto, libera interpretazione esclusivamente personale di quella che è la situazione in questi momenti. Cioè, ci manca il caffè e abbiamo delle grandi scoperte a livello familiare. Questo sono due importanti, come dire, rilevazioni del nostro esperto Giovanni. L'esperto Giovanni Zen. Questa canzone, perché su cui l'esperto Johansen si è ispirato per la sua interpretazione, era Genova chiama della Casa del Vento, ed è una canzone che viene fuori dopo gli scontri importanti del 2001 del G8 di Genova, dove tutta un insieme di persone si è trovata nello stesso posto per dire una stessa identica cosa, cioè che quando la globalizzazione è fatta dai grandi poteri economici, il risultato della globalizzazione è uno sfruttamento ancora più grande, è una disperazione, è una povertà che hanno che toccano tutto il globo. E questo ne è la riprova, se pensiamo a quelle che sono state le ultime manovre senza spostarci più di tanto, del Parlamento europeo e della Banca Centrale Europea. Ed è il motivo che spinge anche quella che è la misura del Fondo Salva Stati, che non è altro che un modo per collegare una rapina a livello continentale. Per collegare una rapina a livello continentale, un fondo che ha il pregio di essere fatto con gli investimenti dei grandi capitali, grandi potenze tedesche o francesi, che investono appunto nel debito pubblico greco per averne un proprio tornaconto privato, oltre alle varie misure che hanno dell'incredibile. Che non hanno una specificazione di carattere, come dire, costruttivo, ovvero che non sono, come dire, finanziamenti mirati a dei bisogni della Grecia, ma sono una sorta di scambio a mezzo di debito pubblico sostanzialmente. Cioè grandi gruppi banchieri, per esempio, della Germania, si sono comprati grandi pezzi del servizio pubblico idrico greco, cioè grande timoniere, scusa, facendo il grande timoniere, io mi fermo un attimo, non sbaglio. mi spiace per questa terrificante introduzione di Samuel. No, comunque, in effetti, tra le tante manovre che sono state approvate dal governo greco, che ormai ha perso ogni legittimità politica, insomma, da 2 anni sostanzialmente non fa che ratificare i provvedimenti che vengono da altri organismi, siano essi finanziari ed economici, fondamentalmente il 10% della Telecom ellenica è stata impacchettata e consegnata sotto l'albero di Natale un po' fuori stagione della Telecom tedesca. Quindi adesso anche le telecomunicazioni greche saranno sotto controllo della Telecom tedesca. Un albero della cucagna, si direbbe. Beh, visto quello che gli stanno, che stanno facendo, sì, si parlava addirittura al Pireo, ormai è stato, alcune attività in Pireo sono state praticamente ormai date alla, a dei gruppi di potere cinesi, e addirittura c'era la proposta piuttosto assurda e paradossale, ma che fa capire bene in che situazione terrificante ormai ci troviamo, di affittare il Partenone a chiunque avesse voluto per 24 ore. Come dire, con la cultura non si mangia, affittiamola a chi se la può permettere. Ma cerchiamo di rompere un po' il velo che è stato posto dalla fantastica e meravigliosa stampa italiana e capire che cosa in questi 2 anni è stato approvato da quella barzelletta vivente che è diventata la copia del Parlamento greco. Dunque, fondamentalmente fin dal 2011 sono approvati dei provvedimenti, appunto, come detto, che hanno avuto del ridicolo. Un incremento di tasse tra appunto 2011 e 2012 che supererà, che dovrebbe comportare un gettito di 5 miliardi di euro, tutti chiaramente spalmati e spremuti ai contribuenti. L'abbassamento della soglia del reddito sotto il quale non si può imporre alcuna tassa, da 12.000 euro a 5.000 euro, e poi qui inizia, come dire, una strana e forse triste serie di parallelismi con le misure che ormai da 2 o 3 anni vengono proposte anche in Italia. Il taglio dei stipendi del settore, dei dipendenti del settore pubblico del 20%, delle imprese che sono di proprietà dello Stato del 30%, che fa un po' da contrattare a quello che è successo in Italia, no? Con questa fantastica taglio delle stop, congelamento degli scatti salariali, il taglio delle tredicesime, no? Per dire giusto qualcosa. In più, ovviamente, c'è la... Non a caso, cioè, mio padre molto spesso mi fa notare questa cosa, notando che hanno fermato il suo scatto per il pensionamento, hanno bloccato la sua tredicesima, la sua liquidazione, e tutto questo in confronto al fatto che alla fine un vitalizio di un datilografo al Parlamento poi prende, cioè, la pensione come un vitalizio di un senatore, o non fosse altro che le tasse per i grandi redditi non si fermano che al, come dire, che hai le tasse di lusso su grandi imbarcazioni o grandi veicoli, peraltro pienamente aggirabili per via della loro dichiarazione all'interno del territorio dello Stato, insomma. Quindi una ancora una volta, quando si tratta di sacrifici, quando si tratta di equità, ci sono due pesi e due misure. Così, ecco, giustamente il gran timoniere ci sta illustrando. Il gran timoniere, Samuele. No, è il gran timoniere ci sta illustrando che il Monti non ce l'abbiamo solo noi, insomma. C'è un Monti in ognuno di noi. No, in effetti, molti Papadimos provengono dalla stessa scuola politica, sono due banchieri, sono due adepti di questa grande fantastica banca chiamata Goldman Sachs, che tra l'altro era divertentissima questa cosa. Sostanzialmente era la consigliera del governo di Papademos, di Papandreou, del vecchio premier ellenico, e nel contempo non solo era la consigliera, ma controllava comprare il debito pubblico. Quindi praticamente, insomma, il conflitto di interessi, come direbbe il conduttore Anna Lira. No, ma insomma, fondamentalmente i greci dimostrano di essere iniziatori della cultura europea, non solo dal punto di vista storico, ma in effetti ci rubano anche le leggi di Marchionne. In effetti nel 2011 si è voluto fare quello che Marchionne, insomma, propone già da un po', non si capisce bene di chi sia la paternità di questa idea, in effetti. Perché cosa hanno fatto nel 2011? Nel 2011 una legge greca ha aperto la strada alla fine delle contrattazioni di categoria. Sostanzialmente il contratto nazionale, anche in Grecia, ormai se n'è andato. Senza uscire dalla compagnia greca, senza l'uscita di nessun gruppo industriale greco dalla compagnia greca, proprio così, un colpo di penna, un tratto di penna hanno fatto. Speriamo che gli finisca l'inchiostro, verrebbe da dire. Comunque, no, comunque, continuando questa fantastica lista di provvedimenti presi dallo Stato ellenico, perché è stato fino a un certo punto, perché come si rilancerà la crescita, come dire, lo sa soltanto Gesù Cristo, lo sa forse neanche. E no, ci si imbatte in manovre meravigliose, per esempio quella sulle pensioni. Perché? Perché le pensioni sui 1.000 euro saranno decurtate del 20%, e coloro i quali sono andati in pensione sotto i 55 anni dovranno perdere il 40% della loro pensione, quando la loro pensione superi appunto la fatidica soglia dei 1.000 euro. La situazione greca è così... è così divertente che 1200 persone a settimana perdono il lavoro. 1200 persone così si svegliano. Un paesino così della presina a casa, un paesino, uno di quei paesini così all'anno perde il lavoro. A settimana, immaginate tutto celico che ogni mattina che ogni domenica sveglia, hanno più lavoro, tutto celico e vai, allegria. In effetti, per rilanciare i consumi, il governo greco ha stabilito una grande piattaforma legale. Infatti, uno dei problemi che angustia la Grecia è quello della disoccupazione giovanile. Il 40% dei giovani greci è disoccupato. L'anno scorso era il 31%, essenzialmente quanto c'era in Italia, quanto c'è in Italia adesso, quindi, come dire, c'è poco da stare felici. Insomma, la Grecia, il governo buffo di Papadimos ha approvato questa legge, cioè il salario netto dei lavoratori, dei giovani greci, no, possono anche tranquillamente, non devono prendere per forza il salario minimo, se no, che gusto c'è, voglio dire, devono farsi le ossa, allora possiamo decurtarlo fino all'84, fino al 15%. E così il loro salario sarà della bellezza di 592 euro. Ora, se ad Atene l'alloggio è 300 euro, come dire? Chi la fa l'aspetti? Per dire... Lanciamo Money dei Pink Floyd, visto che si parlava di soldini, e lanciamo Money dei Pink Floyd. Sentite? Pronto? Ci sono? Ciao, sono... Questa è un esperimento genetico, che genetico, è chiamato Banda Armata, che è l'esperimento, l'espressione del collettivo più occupato, con tutte le sue contraddizioni che sono ciascuno di noi, ma in bontà esserne coscienti. Questo è l'importante. Questo va andando sulle frequenze di Fuori Onda Radio, la web radio del collettivo, che non solo, è una web radio indipendente, e non solo, anche sul, in replica sulle frequenze fisiche di 103.5. 105.7, perdono, ma venerdì alle 5 e sulle frequenze web di Radio di Fase, il martedì alle ore 20, www.radiotransizionedifase.org, ricordiamo. In questo noi parlavamo di precarietà, e parlavamo di precarietà giovanile, non possiamo a questo punto non notare il paragone, che cioè il paragone, la similitudine lampante tra quella che è la precarietà greca e quella che è la precarietà giovanile italiana. Non posso altro che sì, i dati sono pressappoco simili. Come diceva prima il grande timoniere, la luce... Vabbè, il grande timoniere richiede di essere chiamato con un nome normale, io lo chiamerò normale. Il signor normale qui alla mia destra, che prima citava dei dati, io vorrei partire da quei dati. Dati che sono della precarietà greca, che l'anno scorso era il 31%. In quel caso noi siamo al 33%. Cosa succederà l'anno prossimo in Italia? Fermo, restando che i paragoni tra le... Bello, sì, basta. Cioè, tra i paragoni tra le situazioni diverse sono, come dire, comunque... che sono comunque delle cose che non si possono fare. Ma l'anno prossimo cosa avverrà in Italia? È una domanda che ci facciamo in molti. È che... Allora, qui, no? Capiamoci. Avviene che abbiamo il 33% di disoccupati, tra i 15 e i 24 anni. Quindi un terzo della popolazione è giovane e disoccupata. Questo significa che ci sono, se combinate con l'abbassamento della mobilità, che quindi la riduzione della cassa integrazione, la riduzione della sia quella fissa che quella mobile, e con i diversi sussidi che sono anche non solo quelli della cassa integrazione straordinaria o ordinaria, ma anche quelli che sono riguardo alla sanità, ai trasporti e quant'altro, avviene che c'è un calo impressionante del tessuto del sistema sociale. Questo è ancora più lampante se notiamo che i licenziamenti negli ultimi 15 anni sono aumentati del 15%. Questo è un dato, gli licenziamenti sono cresciuti negli ultimi 6 anni, scusate, il 35%, che è una cifra paurosa. Se contiamo che il dibattito politico in questi tempi si parla di, è totalmente basato sull'articolo 18 sì e l'articolo 18 no. Cioè chi fa della demagogia pensando che, dicendo che abbiamo vissuto per anni nel lusso e sopra le nostre possibilità, e dopo un po' ci vengono a dire che siccome adesso abbiamo sprecato e sperperato, stiamo facendo, come dire, siamo tutti quanti incriccati, pieni di nella casta, lo dobbiamo iniziare a lasciare libere le aziende, libere, felici, libere di poter autogestire finalmente il loro personale, quindi di licenziare senza pietà. Questo significa che se già gli licenziamenti ci sono stati e tra i promotori di queste misure sono anche coloro che hanno votato al pacchetto Treu, allora vuol dire che il problema non sono i licenziamenti facili, il problema è semplicemente come ripensare una crescita che sicuramente non può esistere se non si toccano comunque dei poteri forti, se non si toccano dei grandi privilegi. Ma soprattutto si dà qualcosa da spendere alle persone, nel senso che in effetti, come dire, con uno stipendio al di sotto del salario minimo, con una situazione terrificante che va a ledere in effetti ogni sussidio e ogni prospettiva occupazionale, insomma, la gente cosa dovrebbe spendere? Questa è la grande domanda, no? Fondamentalmente la spirale recessiva si crea perché appunto si ruba, si estorce il diritto e quindi la sussistenza stessa, ammantandola con l'alone del privilegio, come se fosse un privilegio avere un posto fisso o una noia, dipende dai punti di vista ovviamente. Vabbè, i privilegi sono sempre un po' noiosi, comunque, detto questo. E non posso altro, come dicevi tu, cosa c'è da spendere, ma dobbiamo rilevare anche il fatto che i mutui accesi dalle famiglie negli ultimi 10 anni sono aumentati ad occhio del 25%, se non ricordo male, il che fa veramente paura. Sentite? Questi sono ogni minuto che passa una famiglia accende un mutuo. Sai che doveva correre da qualche altra parte. A proposito di banche, di accendere, di correre dagli strozzini, quello che riguarda il debito pubblico italiano, dobbiamo ricordare che a chi va il debito pubblico italiano? Il debito pubblico italiano va a Unipol, va a tanti gruppi industriali bancari che sono stati quelli che hanno, come dire, hanno beneficiato delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni che sono state negli ultimi 20 anni, e che solamente grazie all'ausilio del debito pubblico, cioè il fatto che si separava di grande parte di quelli che erano i suoi, la sua applicazione di un diritto, cioè il fatto che lo Stato non dava servizi ma garantiva dei diritti, no? E allora a un certo punto questo grande paradigma dello Stato, del libero mercato, si è separato da questi questi diritti per farli diventare dei servizi, e quindi le ferrovie, le poste, eccetera, sono state privatizzate. Nello stesso tempo sono stati, chiesti in prestito per garantire il bilancio dello Stato migliaia di euro, migliaia di lire e miliardi di lire ai tempi, per garantire lo Stato sociale. E questi sono stati richiesti a dei grandi gruppi bancari, ai quali stiamo pagando ancora adesso dei tassi di interesse indifferenti. Detto questo, Peppo, mandiamo un pezzo. Come with your heart. rubrica Bande Abate. Diciamo che fine ha fatto Luca Abate? Che fine ha fatto? Se lo chiedono in molti. Siamo tutti preoccupati per la sua salute. Che fine ha fatto? Chi l'ha visto prossimamente smetterà questa sua puntata per la sua ricerca. Per ora, diciamo, andiamo avanti, perché la vita va avanti anche senza di Luca. Però abbiamo un altro Luca, che è Regina. Un attimo di confusione, però stasera Luca sarà Regina. Prego, prego. Abate, dica, Banda Abate, dove? Rassegna Stramba, il tappeto sonoro di Luca Abate. Dunque, io sono Regina, ci tengo a precisare, non c'ho nulla a che fare... Non c'è nulla a che fare con Luca, va bene? È Luca dopo un viaggio in Marocco, questo qui. Ok, ok, andiamo avanti con la rassegna stramba. Dunque, sì, prima notizia, residenze universitarie verso la gestione dei privati, diciamo. Quindi dopo i tagli cospicui di anno in anno, le risorse delle università scarseggiano ed ecco che parte dei servizi vengono assegnati a gestori privati, aprendo nuovi terreni di speculazione, questa volta rispetto al diritto. Questa volta rispetto al diritto allo studio, quindi le residenze riguardano appunto il diritto allo studio. Ad oggi, nel silenzio tombale che caratterizza il campus di Arca Magda, il CDA dell'Ateneo discute l'assegnazione ad aziende private della gestione dei servizi residenziali. Negli ultimi anni, grazie diciamo dei contributi governativi mirati, l'Unical ha realizzato nuovi complessi destinati a residenze universitarie, i cui costi di gestione e manutenzione risultano troppo gravosi per le casse dell'università. Forse è finita l'era del virtuosismo, stiamo andando verso diciamo così. Sì. Allora andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la scuola. Che succede in Italia sull'obbligo scolastico? Praticamente non regge più. Ogni anno sono 100.000 AD alle aule, quindi alle classi. La legge lo prevede fino a 16 anni l'obbligo di, diciamo, scolastico, ma nei primi due anni delle superiori il 18,8% lascia, ma diciamo è un dato statistico, in certe zone molto più basso, in altre drammaticamente più alto. Per esempio a Belluno riguarda solo 27 studenti, mentre se andiamo a Napoli circa 60.000 studenti abbandonano ogni anno la scuola. Dunque, arriva notizia dal multisala, dal nuovo multisala costruito, no? Nelle zone di Zumpano. Dopo la trasmissione, la magistratura apre un'inchiesta. Quindi si ricorda, la procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta sulla vicenda della realizzazione di questa struttura in riva al Crati, in un'area considerata ad alto rischio di idrologico, tanto da aver ricevuto una classificazione R4 nel piano stralcio per l'assetto idrologico regionale. Allora, Sorical, torna alla Sorical. La Sorical che cosa fa? Sorical, assieme ad Equitalia, quindi mente e braccio, pignorano i conti del comune, in questo caso San Lorenzo del Vallo, però diciamo che i comuni, per quanto riguarda la gestione dell'acqua, sono tutti... navigano in cattive acque. Grazie. Quindi il mandante è la Sorical, ma l'esecutore materiale è Equitalia. Hanno recapitato all'ente San Lorenzano la procedura di pignoramento dei conti correnti comunali per circa 500.000 euro. Negli ultimi 30 anni sembra che il debito verso la Sorical sia arrivato fino a toccare la soglia di circa 1.200.000 euro. La Sorical nel recente novembre 2010 ridusse addirittura la fornitura dell'acqua alla popolazione nel tentativo di indurre il comune a pagare gli arretrati, difendendosi poi dall'attacco di Maranganello, che diceva che hanno tolto diritto all'acqua ai miei concittadini, quindi il sindaco disse all'epoca, il sindaco di San Lorenzo del Vallo. Oggi la Sorical pignora i conti comunali per 560.000 euro, mentre per la restante parte del debito, 460.000 euro, c'è invece in atto un piano di rientro già approvato. Dal comune San Lorenzano a questo punto si chiedono perché sia Equitalia ad eseguire il recupero del credito e come mai la Sorical abbia bocciato un secondo piano di rientro che prevedeva il pagamento immediato di 200.000 euro e la rateizzazione dei restanti 360.000 in 60 rate. Andiamo avanti. Peppo, che ne dici se facciamo uno stacco? scegli tu, vai, scegli la canzone. Ed ecco qui, ritorniamo alla rassegna stramba. Andiamo a Saracena, vediamo cosa succede. Saracena, il sistema rifiuti è a rischio. La raccolta dei rifiuti è, diciamo, differenziata. Il sistema virtuoso avviato a Saracena, studiato e riconosciuto, apprezzato in Calabria e nel resto del paese, è oggetto di diversi approfondimenti giornalistici nazionali, diciamo, e rischia di essere definitivamente compresso e connesso all'intero sistema di raccolta territoriale a causa dei costi economici non più sopportabili, conseguenza diretta delle scelte irrazionali e scellerate dell'ufficio del commissariamento per l'emergenza ambientale. E questa è la denuncia pubblica del sindaco di Saracena, contenuta in una diffida trasmessa oltre che all'ufficio del commissario anche all'assessore regionale dell'ambiente l'amatissimo Pugliano e per conoscenza al prefetto di Cosenza, al prefetto di Cosenza. Andiamo avanti. Mentre da una parte, ecco, così i costi della gestione virtuosa, no? Sono così eccessivi, si va invece a riaprire discariche. Stiamo parlando della discarica di Alli, quindi riapre la discarica di Alli. Sarà forse affidata alla Daneco? Quindi sta per riaprire questa discarica dopo il dissequestro firmato dal sostituto procuratore Carlo Villani il 3 febbraio scorso. La struttura tornata nella disponibilità, diciamo, dell'ufficio del commissario per l'emergenza ambientale, sta per essere affidata ad un'azienda privata. In queste ore il commissario, il new entry Vincenzo Speranza, sta predisponendo tutti gli atti necessari per predisporre un affidamento temporaneo senza gara pubblica, tenendo conto dell'urgenza dell'intervento. Eh sì, perché così funziona, no? Il commissario dell'emergenza serve proprio a questo. Secondo quanto si è appreso, la discarica di Alli per i prossimi mesi sarà gestita dalla Daneco, la società già proprietaria della discarica di Pianopoli, che sappiamo, diciamo, l'utilizzo illecito non è a norma. Andiamo avanti, andiamo nel Salento. Più che Salento è anche una grande opera che attraversa l'Adriatico. Stiamo parlando del gasdotto, cioè praticamente in progetto la realizzazione di un gasdotto, ma a quanto pare si sono verificati dei cambiamenti sul percorso di questo gasdotto. Stiamo parlando di un progetto della TAP, si chiama così, cioè Trans-Adriatic Pipeline, l'affare che piaceva anche molto ai trentini. I vertici dell'azienda incontrano i comitati cittadini contrari alla variante sul tracciato che porterebbe l'opera direttamente nel cuore di uno dei luoghi più belli del Salento. Quindi praticamente hanno cambiato, mentre diciamo prima lo sbocco, ricordiamo che questo tipo di gasdotto serve per trasportare diciamo gas in Italia, passando per la Grecia, per l'Albania, gas proveniente dall'Azerbaijan, Azerbaijan, non so bene la pronuncia. Comunque, a quanto pare, mentre prima doveva arrivare nella zona industriale isolata di Brindisi, adesso arriverà proprio nel cuore del Salento, nella zona più turistica, a Melendugno, un percorso di circa 20 km sulla terraferma fino al territorio di San Donato. Quindi il motivo di tale repentino cambiamento di rotta non è mai stato ufficialmente spiegato dal Trans-Adriatic Pipeline, e si prepara così la rivolta dei no-tap, quindi da no-tav a no-tap. Trans-Adriatic Pipeline. Andiamo avanti. E dunque, una bella notizia che ci arriva è il processo sull'Eternit, quindi la vittoria. Però a quanto pare c'è un giallo sulle vittime dimenticate. Dunque, mentre da una parte ci sono familiari che gioiscono per aver avuto giustizia, dall'altra c'è la rabbia delle 700 famiglie che non hanno ottenuto l'indennizzo immediato. Dicono che si tratta di un'ingiustizia. Erano in aula, hanno atteso per 3 ore la lettura della sentenza, ma alla fine dal tribunale sono usciti a mani vuote e senza un perché. A 3 giorni dagli applausi per la storica condanna dei manager dell'Eternit, 16 anni di carcere, quasi la metà dei familiari delle vittime dell'amianto, ora prova rabbia e amarezza, interpella gli avvocati, si riunisce per capire cosa fare. Sono i fantasmi della sentenza, centinaia di persone di cui nome e cognome non compare nell'elenco di chi ha... diritto al risarcimento. Dunque, gente che ha perso il fratello, un figlio, un marito per colpa dell'amianto, esattamente come nella famiglia del vicino di casa, ma che è stata inspiegabilmente esclusa o dimenticata. Ricordiamo, per rimanere in tema, che in Calabria il processo Marlane dà appuntamento il 24 febbraio, quindi dopo l'ennesimo lungo rinvio ci troviamo il 24 febbraio a Paola e speriamo che si decidano a concludere qualcosa, insomma. Il presidente, vabbè, adesso sto per passare una notizia ben, diciamo così, discussa prima da Samuele. Il presidente dell'Istat alla Camera: occupazione giovanile continua a calare. Nei primi 3 trimestri del 2011 sono andati persi altri 80.000 posti, quindi una flessione del 2,5%. In Italia lavora meno di una donna su 2, quindi la situazione sta andando... E io con questa chiudo, Peppe. Adesso non lo so, magari che canzone? Caparezza? La disoccupazione aumenta, i guai sono tanti. Andiamo con Tarantelli. Usciremo da questo momento. Grazie. cime taradella taradella vacamba ma non so che taradella vostra che si cace suonamma ci cantamma la ballamma mana mana cabalamma tutta cosa sta cagliando già quando la musica non è buona è assai difficile a ballare ma tutti sti sulla luna prima tu con mamma fai ma che non è bancadella ma ne in vacanza le Seychelles sotto il fuggio e mattonella magna magna e bustarella la patenza e spugliarella fanno i festini l'indepilla se pazziene quali uccella se trapiante nei cavilla bucchinare una cannella vanno tutte cose belle cravate marinella champagne che darà la ticina e mozzarella vanno tu ne spugliatelle che canzona una vicella ci metterà delle tarantelle va gamba noi va ci metterà delle tarantelle va gamba voi suonate ne balla mamma sta musica da cagnamo marina cacciara di su figlia mi trasforma in tarantelle che balla mamma va gamba noi va ci metterà delle tarantelle va gamba ma non so che tarantella volta che stica ci suoniamo ci cantiamo la balla mia mano mano che balla mamma tutta cosa sta cagnando già nella piazza la folla balla la tarantella tiene alta la guardia con la fuori, sugli accordi salta come gli accordi di Mirafiori, a piedi nudi danza pure, che porti le scarpe non sono solo le aziende di cantature, il sindacato ti molla con una zavorra, la vita molla, pice foni che sulla zamorra, tarantelle per pagare le spese, col denaro che termini come termini i mese, i suonatori sviolinano per due voti ma poi ti lasciano sotto tiro nei terremoti e si balla, con il veleno somministrato si balla, mica come nei voli di stato si balla. In the feste dei paesi con orgoglio perché quello che sima facimmo tarantella non teniamo proprio niente che c'è prima vergogna noi ca non facimmo solamente tarantella va a campare a mano a mano che facimmo tarantella ci accorgiamo delle potenzialità ed ogni tarantella diventa talamento canto di libertà libertà casa dipende che curtiello tanti botto da bulli va vicina Qui questa è una tarantella per campare di 91 posti fittini di Parezza e questa è, lanciamo questa grande nuova rubrica universitaria chiamata Cerro di Quarta Università. C'era una volta l'università dove scorgava libero e felice tutto il sapere del mondo. Brutto giorno baroni banchieri, rettori ordinari si nascosero in un cespuglietto nei pressi della fonte. E mentre il povero studente si apprestava ad abbeverarsi alla fonte del sapere, i ministri, i professori saltarono fuori e fecero un sol boccone. C'era una volta l'università, la rubrica di approfondimento universitario che stavate aspettando. Benvenuti a C'era una volta l'università, la rubrica sull'approfondimento universitario che stavate aspettando. Non possiamo che iniziare questa volta dalla riforma Ruberti, questo ministro socialista del neonato, come dire, Ministero per l'Università e la Ricerca, che il Murst, istituito nell'89, che avviò l'inizio, come dire, questo grande percorso di liberalizzazione universitaria, diremmo, no? Cioè di in qualche modo di privatizzazione dell'università, cioè di un modo per lo Stato per regalare la gestione universitaria ai privati, sempre nell'ottica del debito pubblico che dicevamo prima, cioè per fare cassa. Insieme ai grandi comparti di servizi pubblici statali, anche il sapere veniva preso di mira, sotto attacco. E la prima, il primo passo era appunto questo, quello della riforma Roberti, che istituisce questa norma, questo principio nuovo applicato all'università, quello dell'autonomia, dell'autonomia. Autonomia che la classe docente farà molto fatica a comprendere a livello di concetto, ma che farà molto presto da applicare in pratica nelle sue convenienze economiche, ristrutturando tutti i loro apparati di potere secondo quelle che erano le clientele locali e le, come dire, le convenienze locali. Detto questo, andando nel corpo della riforma, essa istituiva un'autonomia finanziaria e contabile in luogo di una prima autonomia come dire, espressa solamente per principio. L'autonomia finanziaria e contabile già apre a quelle che sono le iniziative e i contributi dei privati, che quindi non possono che essere, come abbiamo detto molte volte anche negli ultimi come dire, stagioni del movimento studentesco, non possono che essere delle forme di come dire, speculazione su quello che è il sapere, che dovrebbe essere lontano da quelle che sono come dire, le logiche di mercato. L'altro criterio istituito dalla riforma è quello del rinnovo degli statuti approvati per decreto, semplice decreto elettorale. Questo ci dà già l'idea di quello che poi presentata come risultato questa riforma, cioè una riforma per il quale il beneficio di questa autonomia non era altro che a le clientele baronali e le cricche legate a come dire, le dirigenze importanti dell'amministrazione universitaria. Tutte le riforme universitarie avevano la caratteristica di essere decise semplicemente da quelle che sono le amministrazioni in carica, senza nessun tipo di concertazione, di confronto democratico attraverso, cioè, all'interno dell'università, semplicemente appunto per un decreto come dire, rettorale. La affermazione per cui divenne storico il caro amico Roberti, che sicuramente il nostro caro Peppone della regia, come dire, condividerà. Saluto il nostro amico Roberti, gli manderei un applauso. Grande signor Roberti. Io proporrei un altro applauso per questa frase, che è: il prodotto laureato non è costruito a misura del mondo del lavoro. Quindi sono prodotto laureato in questo momento. Beh, questo significa già dall'idea, come giustamente notava Peppe, del punto di vista di Carlo Roberti, che non vedeva le persone o il sapere, ma un prodotto da smerciare e mergificare, che c'è destra a mano. Oh no, Peppone. Eh sì, è giusto. È un prodotto tipo una moltiplicazione. Esatto. 2 per 2 è un prodotto. Sei un numero, sei. Senti, quando... Oppure è un prodotto tipo un latticino, un formaggio, una provola. Tu senti più una provola o un numero? Più una prova. Esatto. Io sono anche dell'idea di Peppone. Sto di fatto che comunque penso che abbiamo un po', anche pur essendoci delle provole, non abbiamo molta voglia di essere venduti, smerciati e trattati come delle merci nel mercato del lavoro. Quantomeno se il mercato del lavoro è quello che abbiamo adesso e che, come dire, ci consente questa così flessibilità, che non è altro modo di chiamare la sodomia, o no, Peppe? Diciamo che alla fine c'è sempre una questione di ortolani di cetrioli. Esatto. Questo è la massima, è questo. Qual è quella sempre? Il cetriolo va a finire dove? Lo diremo nella prossima puntata. Esatto, detto questo possiamo anche mandare la sigla finale. Tra gente che gesticola con le armi